Euroreportage. Il futuro economico dell'Europa passa da Milano. Di Sergio Nava. Buongiorno e ben ritrovati con l'Euroreportage di Radio 24 che oggi fa tappa a Milano, sede dell'ultimo Eurogruppo Ecofin informale. Un vertice estremamente atteso su cui la presidenza italiana aveva puntato molto per dare un'impostazione forte al suo semestre, ma che, come vedremo, non ha prodotto i risultati sperati. Andiamo però con ordine e ripartiamo dall'inizio con l'arrivo venerdì 12 settembre al centro Milano Congressi del ministro Piercarlo Padoan. L'Europa deve mettere crescita e occupazione al centro delle priorità dopo che ha messo consolidamento fiscale e unione bancaria, e questo credo che sia totalmente condiviso dai miei colleghi. Come la stessa BCE ammette nel bollettino e come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. Dovrete superare resistenza a Germania. Con la Germania non ci sono resistenze, c'è accordo. Di investimenti parla anche il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble con un'interessante apertura che conferma la volontà di Berlino di seguire questa strada. Anche la Germania, insomma, non è contraria a usare la leva degli investimenti pubblici e privati per riportare la crescita sui giusti binari in Europa. Ci occuperemo della situazione economica in Europa, sostanzialmente della creazione di condizioni migliori per gli investimenti. Ne abbiamo già parlato a giugno. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti in Europa. Occorrono maggiori investimenti nel settore privato. Il tema, infatti, oggi è come ridurre la distanza fra salari lordi e netti per gli imprenditori, in modo che le imprese possano rafforzare gli investimenti nel settore privato. La strada giusta è maggiori investimenti, mantenendo ovviamente la barra ferma sul consolidamento dei bilanci, sulle riforme strutturali e su migliori condizioni istituzionali. Il tutto per favorire la crescita e i posti di lavoro. Sulla Francia, il mio collega Sapin ha tratteggiato la situazione mercoledì. Parigi farà ulteriori tagli per 21 miliardi, ne abbiamo parlato. Quando la Francia presenterà la sua finanziaria, sarà analizzata dalla Commissione e solo successivamente dall'Eurogruppo. È vero che la Francia mancherà il rientro dal deficit già quest'anno. Anche di questo se ne occuperà la Commissione e in seguito anche Eurogruppo ed Ecofin. Intanto il ministro delle finanze austriaco Hans-Jürg Schelling avverte: la crescita economica è positiva, ma senza creare nuovo debito. Nel primo pomeriggio la conferenza stampa dell'Eurogruppo produce un primo risultato con le linee guida per i paesi dell'Eurozona in materia di tassazione del lavoro. Occorre tagliare il cuneo fiscale riducendo la spesa improduttiva o spostando il carico della tassazione verso settori meno rilevanti ai fini della crescita. Misure queste, e qui l'attenzione sembra spostarsi in particolare sull'Italia, da accompagnare con riforme del mercato del lavoro. Sentiamo ora alcune delle voci di questa conferenza stampa dell'Eurogruppo, dove ancora una volta la parola d'ordine è stata investimenti. Iniziamo dal presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem. Gli investimenti sono una parte molto importante della politica che occorre portare avanti e di cui abbiamo bisogno. Riguardo la politica monetaria, credo che la BCE stia facendo molto per favorire e sostenere la ripresa economica, per la quale sono fondamentali le riforme strutturali. Su questo fronte, molti paesi potrebbero e dovrebbero fare molto di più. Circa i conti pubblici, nei prossimi mesi discuteremo della politica di consolidamento e lo faremo non appena saranno pronte le leggi finanziarie dei diversi paesi. Infine gli investimenti, non solo pubblici ma anche privati. Credo che su questi punti tutti siano d'accordo. Il grande dibattito è su quale politica portare avanti per favorire la crescita e l'occupazione e quale combinazione di politiche si tengano insieme. E ora il commissario europeo all'economia, Jyrki Katainen. Molto può essere fatto, come abbiamo visto in passato, all'interno delle regole esistenti. In questo momento così particolare è importante che non ci siano interpretazioni della situazione o bianco o nero. La questione non è scegliere fra la crescita o il consolidamento dei conti pubblici. Il mondo reale non è così semplice. Occorre una interpretazione sana del consolidamento dei conti perché migliori la fiducia. Allo stesso modo, dobbiamo guardare molto attentamente la composizione della spesa pubblica in modo che più paesi mettano come priorità gli investimenti futuri. Inoltre, abbiamo bisogno di riforme che rafforzino la competitività, perché questo è il problema maggiore in Europa. Le difficoltà sono di natura strutturale più che ciclica, anche se ci sono criticità di stampo ciclico nella situazione economica attuale. Mentre il presidente della BCE, Mario Draghi, si concentra sul sul consolidamento dei conti, premessa indispensabile per riforme e investimenti. Let me say one word on the fiscal consolidation. Lasciatemi dire qualcosa sul consolidamento dei conti pubblici. Non dobbiamo dimenticare il passato, con i profondi squilibri economici e i progressi fatti negli ultimi anni sul fronte del consolidamento in molti paesi. Progressi che hanno notevolmente ridotto gli squilibri nell'area euro. Dobbiamo ricordare che il patto di stabilità e crescita ha agito come un'ancora per la fiducia. Gli effetti delle politiche monetarie e di bilancio sono maggiori solo se è stato preparato il terreno per riforme strutturali adeguate, piuttosto che in assenza di riforme. È un fatto chiaro ed è per questo che si parla di dividendi delle riforme. Uno dei punti centrali dell'incontro di oggi è stato quello di porre l'accento sulle riforme strutturali, perché il ritorno degli investimenti vuol dire riforme strutturali più ambiziose. E tutti siamo d'accordo su questo punto. Per rispondere alla necessità di spingere sulle riforme strutturali, i paesi devono affrontare le raccomandazioni specifiche per il 2014 in maniera determinata. Questo è un punto importante perché in nessun modo la politica monetaria e di consolidamento dei conti pubblici da sole bastano per far ripartire la crescita, a meno che non ci siano riforme strutturali serie. If there are no serious structural reforms. Apriamo ora una parentesi e focalizziamoci su un ambito preciso, il mercato interno europeo. Uno dei tre pilastri, con investimenti e riforme, individuato dalla presidenza di turno italiana per far ripartire la crescita in Europa. Ne abbiamo parlato con il commissario europeo uscente al mercato interno, il francese Michel Barnier. C'est quoi le marché unique? Cos'è il mercato unico per le imprese e i cittadini? Si chiede Barnier. Il mercato unico è la base di tutte le attività economiche, dice. Se questa base resta frammentata tra 28 fiscalità diverse, tutte le iniziative pubbliche e private finiranno con l'essere meno efficaci. La presidenza italiana ha dunque ragione a farne una priorità, a fare della riduzione delle fratture e dell'armonizzazione del mercato interno un tema prioritario. Meno burocrazia e più politica comune. La base resta il mercato unico, dice Barnier. E più di politica comune, la base è il marché unico. Chiediamo allora a Michel Barnier cosa resti da fare però per completare il mercato interno europeo. Il resto dal domaine dei marché finanziari. Resta molto da fare nel settore finanziario, c'è ancora troppa frammentazione, occorre facilitare l'accesso delle imprese ai capitali e alla liquidità. Con l'unione bancaria stiamo cercando di ricostruire un mercato unico. L'economia dei servizi è pure molto importante, c'è una direttiva europea da applicare, questo per facilitare la mobilità. Infine, la sfida del mercato unico digitale, che costituirà una priorità della prossima Commissione, come anticipato anche da Jean-Claude Juncker. Quello che probabilmente si configura come il risultato più importante del suo mandato, chiediamo a Barnier, è l'unione bancaria. I cittadini non pagheranno più per i fallimenti delle banche, questo lo può garantire? Je l'espère, nous avons travaillé pour cela. Lo spero, risponde Barnier. Noi abbiamo lavorato per questo. Non è normale che banchieri che prendono dei rischi mettendo prodotti tossici sul mercato vengano anche retribuiti con bonus insensati e inspiegabili, facendo pagare colpe ed errori ai contribuenti. Ciò che abbiamo fatto è stato costruire una regolamentazione e una supervisione per sanzionare chi manipola il mercato finanziario, limitando i rischi e facendo in modo che le banche paghino per le banche. Limitare i rischi non significa però eliminarli del tutto. Ci sono settori nello shadow banking o nell'utilizzo dei benchmark dove permangono rischi. Anche nelle banche sistemiche ci sono ancora rischi. Questo è il lavoro che lasciamo alla prossima commissione, conclude Michel Barnier. Too big to fail, il y a encore des risques qu'il faut maîtriser, donc du travail pour la nouvelle commission. La seconda giornata del vertice, che nel frattempo si è trasformato da Eurogruppo in Ecofin informale, si apre sotto il segno delle aspettative per il piano di investimenti che dovrebbe muovere i primi passi proprio da Milano. Sentiamo il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan. Oggi Ecofin entra dal merito di misure concrete di sostegno agli investimenti sia pubblici che privati. È un giorno molto importante perché dà sostanza alle priorità che l'Italia ha messo sul tavolo dell'agenda europea dall'inizio. Il resto della mattina trascorre tranquillo. La riunione dei 28 ministri delle finanze prosegue poi fino al primo pomeriggio, suddivisa per temi e prendendo le mosse proprio dalla delicata questione degli investimenti. Unione bancaria e mercato interno sono tra gli altri punti all'ordine del giorno di una discussione che, come riferisce una fonte a Radio 24, entra in dettagli estremamente tecnici. Quando nel primo pomeriggio il ministro dell'economia Padoan compare in conferenza stampa, si capisce presto che l'Italia non ha grandi annunci da fare, se non a ribadire che l'Europa riparte dagli investimenti. Milano non rappresenta dunque il punto di svolta sperato. Dal capoluogo lombardo non esce alcun piano. Tutto viene demandato a Commissione europea e BEI, che entro metà ottobre dovranno approntare proposte concrete per i ministri delle finanze. Sentiamo allora Padoan. Si è discusso molto nel concreto, su misure di facilitazione degli investimenti, sul ruolo che la Banca Europea degli investimenti potrà svolgere per facilitare questi investimenti, mettere assieme gli sforzi privati con quelli pubblici, e ci attendiamo che Commissione Europea e Banca Europea degli investimenti producano presto, già con un rapporto intermedio al prossimo Ecofin, suggerimenti molto concreti da tradurre in misure nazionali ed europee in questa direzione. Sotto traccia, e al di là delle dichiarazioni concilianti, resta forte lo scontro tra il partito del rigore e quello della flessibilità. Anche per questo l'Ecofin alla fine produce risultati al di sotto delle attese, con la frangia nordica che insiste affinché quella meridionale, più riluttante, leggi Italia e Francia, ma soprattutto Italia, faccia le riforme e non le annunci semplicemente. Portavoce di questa posizione appare il commissario all'economia e futuro vicepresidente della Commissione Juncker, Jyrki Katainen, che paragona le riforme a medicine amare, necessarie tuttavia a guarire dai mali che affliggono l'economia. Radio 24 ha intervistato Katainen al termine dell'Ecofin milanese. Sentiamo cosa ci ha detto. Con le sue parole si chiude anche il nostro Euroreportage. There will be the Juncker investment program, which... Il piano per gli investimenti si rifà al programma del prossimo presidente della Commissione Juncker. Noi incoraggiamo gli stati membri a rendere prioritari gli investimenti pubblici per il futuro su ricerca e innovazione, ma anche nelle infrastrutture. Inoltre incoraggiamo gli stati a fare le riforme strutturali per rafforzare la competitività. Non puoi stimolare una macchina se è mezza rotta. Ciò è importante non solo per l'Italia, ma per tutti i paesi membri. Non ci sono paesi immuni dal processo di riforme strutturali, dice Katainen a Radio 24. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.